chi è? Basso, basso ti sento, che sì? Chi? Parla più forte. No, non ti ho sentito, non ti ho sentito. Ma dove sei? Così lontano sì. Dove sei? Caspita, all'anima. Sei vicino a me. Come faccio? Come faccio a non sentirti? Allora stai uscendo. Cosa stai usando? Un giocattolino. Ah, ho capito. Uno... un malacchinetto da un watt nemmeno. Ho capito. Quanti canali ha? Tre canali. Ho capito. Ah, ecco. Ma antenna non ne hai? Come... ecco, con l'antennino suo. Ma dove sei di preciso? No, vicino al campo sportivo. Io anch'io sono vicino al campo sportivo. È per quello, magari gli altri non riescono a sentirti, se ci fosse qualche altro in frequenza non ti può sentire, non è possibile, perché ti sento talmente basso io che sono vicinissimo a te. Ah, in cantina sì, nella cantina sì. Sali su al piano. Salendo stai. Non puoi, perché non puoi? tua madre non vuole che usi il baracchino. E per quale motivo? Cosa gli hai combinato a tua madre? Ah, l'hai fatto arrabbiare. No, non è possibile, ragazzi. Hai visto cosa significa fare la monello, eh? Ciao Giovanni. Ma quanti anni hai? Ciao Giù. 14? Ma a scuola già ci stai andando, se forse è per quello che tuo padre non vuole, perché devi studiare. Appunto. Appunto, sì, ho capito. Hai fatto cambiare perché ti hai fatto figli. A scuola ci devi andare, non puoi tu lasciare la scuola per andare a giocare al calcio. Il calcio è una cosa, lo studio è più importante, però ci mancherebbe. Ecco, appunto, prima vai a scuola e poi magari ti lascia andare anche a giocare al calcio, perché no? No, non è così. La voglia di studiare ti deve venire, guarda, prima di tutto perché sei ragazzo, sei giovane, per cui poi lo studio è la cosa più importante nella formazione di un ragazzo. Se vuoi diventare un uomo come si deve, nel senso preparato eccetera, devi studiare, perché se no senza lo studio oggi non trovi nemmeno lavoro, guarda, già è difficile trovarlo chi è laureato, figurati un po' tu se poi non studi proprio per niente, dice hai fatto gli elementari, ma gli elementari non bastano, eh. Ciao Giulio. Chi è? Un attimino che sto che sto parlando con un ragazzino qua vicino a casa che non ha voglia di studiare e la madre l'ha rinchiusa in cantina. Come non è possibile, una specie di sequestro, di persona che ha fatto tua madre. E allora vai su e prendi il libro, fatti vedere che studi e vedrai che non ti punisce più. E vabbè, vai a studiare adesso, vai. Ciao, ci sentiamo, dai. C'è un amico che mi stava chiamando. Chi era avanti? Buonasera, Natalino Alfa 1, ciao. Ciao Natalino. Un bambino, un ragazzino di 14 anni, qui vicino a casa, con un baracchino da tre canali. La madre l'ha pulito e l'ha mandato in cantina. E lui stava parlando al baracchino, dalla cantina, qui vicino a me. Ma c'era di quelli per tattili, con l'antenna e tutto, no? No, perché se non ha voglia di studiare, allora la madre l'ha punito. E lui si è deciso, l'ha obbligato la madre a scendere in cantina, perché dice che non lo lascia uscire, per stasera dice non deve uscire. Se non studia non esce. Natalie! Ehi, sto facendo cosa qua, dai! più. Vabbè, dai, ciao Natali, mettiti a posto con la radio comunque, che è tutta quanta piena di fischi e fischietti. La radio è piena di fischi e fischietti. E allora, tutta piena di fischi di ogni genere, ce n'è. Un innesco abbastanza forte anche. Vabbè, già la controllerò, va. La controlla, va, buffa. Ci sentiamo allora, Natale. Non c'è nessuno su questo canale, adesso me ne passo sul 23, vediamo se c'è Bacchisio, Gio Maria, quella gente lì. Vabbè, ciao Natale, alla prossima. Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione canale 10. Chi è avanti? TQ 10, c'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Guarda, chi è qua? Chi è avanti? Avanti sul canale 10, cazzo, ma quando mai, che mi serve un QRK, per cortesia. Vuoi ridicare e non farvi da più. Attenzione 10, ecco. Allora se dobbiamo buttare un po' di scagliola. Mi sa che... Qua che si fischi non entra nessuno. Ma ti sento malissimo, I filtri ti stanno facendo a pezzi perché la modulazione è alta. Ah, mi sentivo all'interno. No, non ti capisco, C'è una larghezza di banda per baracchini che prendono due canali, tipo multimode 3. Questo può rimanere sul canale, però si è distorto. Però si sente, quando premi si sente boom, boom! Devi abbassare almeno la metà. Avrei già fatto dove sta andando adesso. Stavo preparato per uscire. Dai, ci sentiamo, andiamo a fare. Stavo bene. Saluta le attività che c'entrano, sempre che entrano. Al 50% ho capito che stai andando via, comunque ciao, buona serata. Alle prossime, in condizioni migliori ovviamente. Questo non può essere che Natalino così. Tu sei Natalino. Che c'è Natalino? Oh Giafra, buonasera. Ah ciao, non sei Natalino, sono confuso. No, non sono io. Cioè, non sono lui. Chi sei, Stefano? KK. Ah, ok, ciao. Niente, sono il primo, mi è sembrato che ci fosse Natalino, magari la scopo sta facendo così. Niente, tempo brutto comunque. Sì, brutto davvero. Ero a Dolbia stamattina, sono entrato circa un'ora e mezza fa e anche lì era brutto. L'imbara è nevicato, tutto intorno a Dolbia è nevicato lo stesso, quindi era un po' così. Un giorno e mezzo che pioveva tutto il tempo ieri. Ho capito. Il suo periodo. Speriamo che non se lo facciamo scappare. Come al solito. Vabbè, io avevo qua al PC, stavo recuperando una batteria. Se ci riesco, mi tocca ordinarla, mi sa. Che scocciatura. E vabbè. Cosa mi racconti allora? Come va? Bene Gianfra, bene. Più che altro no, su un DMR lì sull'imbarano non c'è niente, o meno non transita niente. Dunque fammi capire, non transita, che è già un termine che significa che non passano le comunicazioni, oppure non si sente proprio niente perché non c'è nessuno? No, beh, che non ci sia nessuno questo non lo posso sapere. Comunque ho fatto uno scan, diversi scan, diciamo, però no, mattina, pomeriggio, sera, insomma, niente, non c'era assoluto. Eppure l'altra volta con sempre col mio, come dire, col mio portatilino dal porto di Olbia sono uscito, cioè parlavo tranquillamente con accettavo il ponte tranquillamente, una volta è successo, una volta sul canale Sardegna, però niente, ho provato, ripeto, diverse volte, ieri anche l'altro giorno, niente, mi sto portando il portatile appresso, ma negativo. Sì, ho capito. Per la cranca ti stai portando, quando smetti di parlare un forte rumore tipo ventola o cosa, se ti può essere utile adesso, ormai senti sul sottofondo, su tutta Italia c'è traffico. No, il portatile è rimasto in macchina, l'altro, il veicolare se l'ho scollegato perché è tutto collegato qui al TS2000, quindi non ho niente momentaneamente. Ho capito. Allora, comunque, per la cronaca, allora, per l'imbara, parliamo l'imbara da Sassari, ti consiglio di autocostruirti praticamente a un costo di 5 euro probabilmente una mini antenna direttiva, perché elimina molte riflessioni che ci sono da spostare verso l'imbara. Ti posso assicurare che con un'antennina già 3-4 elementi transiti tranquillamente. E quello che ho fatto io, ne ho costruito due, una in alto, l'altra in basso, ma anche quella in basso funziona ugualmente, il transito è assicurato. Ed è la cosa migliore, perché con la verticale, anche se è molto alta, e per di più è la 510, e l'imbara arriva bassa, mentre con la direttiva segnali i segnaloni proprio. Sì, sono d'accordo con te, sì, aspetta, non è che io ricevevo, ho fatto le prove di scan col portatile da qua, le ho fatte da Olbia direttamente, quindi forse l'avrei capito. Io da qui l'imbara mi arriva a 3, un S3 mi arriva, 3-4 il ritorno del ponte, ma io non lo eccito con questa antenna che ho, mentre quando tempo fa avevo la 500, che cavolo era, 2000, non mi ricordo che cosa, comunque un pochino più alta di questa, perché adesso ho la 6000 credo, X6000, quella che fa V50 MHz, se non vado errato. Adesso ho preso una 510, quindi dovrei mettere quella, però riesco a eccitare il ponte dell'imbara da qua, da casa, con la 510. Sì, anch'io, però ad alta potenza, capito, nonostante sia favorevolissimo per l'imbara, però anche su 400, com'era, 400 a 0,25, dai, ponte analogico, è un problema, forse c'è un po' che ci arriva. Mentre invece con quell'antennina direttiva premi e parli, non ci sono problemi, capito? Quindi anche la strada magari ti conviene costruirla, tanto è una fesseria, è proprio una cosa di una semplicità, le fa il contropelo alla 510, cioè sembra quasi a meno posto, ma puoi metterla per tutto, e c'è il contatto immediato. Cosa ti potevo dire? Se vuoi facciamo una prova a vedere come transiti su quello là di Olbia 0,25. Sì, se vuoi sì, andiamo R1. Sì, R1, aspetta che esco qua dal coso, come si chiama, dal DMR, dal Maradia Nero e mi porta, ecco, ci sono già, sono con l'antennino direttivo, un antennino di mezzo metro appena, e vediamo un po' come arriva. Dammi un minuto soltanto, anzi mezzo minuto, un secondo. Ti chiamo qua, eh? Come vuoi, tanto sono ascolto qua e là. Sì, un secondo che faccio una commentazione. Ci sono, Ella. Ok, allora ti chiamo. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua sul canale? Sì, ci sono io e Stefano, ma stavamo facendo delle prove, sono stato frequento. Ciao Luca, se non sbaglio. Stefano, ci sei qua? Sì, ci sono. No, ti sento un S3. S3-4, ma non passa evidentemente. Ah, ciao Ste. No, io sto provando quel baracchino famoso che là nel QTH mi dà, nell'altro QTH mi dà l'alternata. Non so, boh, anche con l'alternata staccata, boh. Invece qua non credo, ho alternata, la sua portante. No, buonasera Luca. No, da parte mia no, modulazione buona, sembra che hai un microfono amplificato, senza alternato, 9+20. Vai già. Stessa cosa per me, mentre per te Stefano, quando smetti di parlare, come ti ho già detto, si sente questo rumoraccio, sembra un motore sotto in funzione. Sì, c'è. Siamo a ventola del computer, del portatile. E beh Stefano, già mi dici, bene va con il portatile. Sì, perfetto. Ieri però quando l'ho acceso si è fatto lo schermo blu, non ho capito perché. Là, schermo blu è l'hard disk. Sì, va bene, poi si è ripreso. Sì, ma poi l'ho riformato e gli metto un'altra cosa e lo sistemo io. Per adesso va bene così. Praticamente è andato in crash, capito? Quando fa la schermata blu, lo fa anche a me comunque ogni tanto il mio. Eppure l'hard disk è buono, non è che sia danneggiato. Di solito lo fa quando è danneggiato, va boh, dai. Vi saluto, che sto uscendo, dai, alla prossima, ciao Ste. Ciao Lu, a presto, ciao, buona giornata, buona serata. Altrettanto a voi, ciao, riprendiamo qua, ciao. Sì, ciao, con la radio sì, ma va bene, perfetta. Quindi sei appena a 3 lo ricevi, quindi basta un po' di QRM che ti sparisce, ma mi sentivi che transitavo? Sì, confermo, ti sentivo al 100%, no, senza problemi. Chiaro, però 3. S3-4, proprio basso. Lo so, io da qui dove sono io, se metto la 510 arrivo all'imbara tranquillamente, perché l'ho fatta già una prova e sono certo che passo, capito? Sì, infatti qua arriverà almeno 7-8. Purtroppo non c'ho il... accidenti, scusa, non c'è ancora il dosmeter per poter vedere, perché c'ho quello tipo telefonico, no? Attacche, però quando avevo attaccato 2000 vedevo che il segnale era forte, come potenza è il minimo possibile di quegli apparati, quindi intorno ai 10 watt neanche, quindi non metto neanche alta potenza. Ma se lo attacco al portatile da 5 passo lo stesso. Sì, no, io ero 50. Sì, adesso ho ricevuto la ritorno del ponte, non da me, diciamo, dalla voce registrata, e siamo lì, 3, 5, 3, 4, è lì il segnale, capito? Vabbè, lo farò migliorare più avanti. Sì, ma infatti, ti ripeto, ti metti in una termina pista, intanto ti è utile anche per il DMR, non ti costa niente, lo fai con quella canaletta in plastica, e i tubi, tre tubi piccoli d'alluminio, e costano una fesseria. Bastano 3, costeranno neanche un euro l'uno. Con la fesseria c'è un'antenna, un guadagno, ma paura. E vabbè, adesso un po' sto immaginando come potrebbe essere. Sì, ho capito, ma lo farò in seguito, fra qualche giorno, perché devo cambiare, ti ripeto, quella che ho. O faccio una piccola direttivina, o vediamo cosa posso combinare. Però il DMR io riesco a arrivare al Montiferro, da qui. Montiferro tranquillamente arrivo sino a Cagliari. Sì, perché ci rimane un po' più aperto da questa zona e soprattutto c'è meno riflessione. Di lì a Montiferro arrivo con l'antenna normale, diciamo, la 510 ci arrivo senza problemi. Però stai usando sempre un'antenna enorme, capito? sul rimbarano con la direttiva, o proprio se va male male ci metto la direttiva appunto verso Montiferru, anche se c'è una piccola collinetta, ma già non lo dovrebbe fare niente. Infatti proprio avanti ieri ho terminato di costruire un'antenna pressoché identica, però in versione VHS, l'avevo ancora a testare, perché tra un temporale, pioggia e tutti ne ha appena messa, non c'ho ancora avuto il tempo di farle tutti i test. L'ho tarata già, questo c'è un ottimo fattore di stazionare, diciamo, perché sulla nostra banda è abbastanza bassa, e quindi vuol dire che il progettino è andato a buon fine. Adesso vediamo se il guadagno vale la pena, perché se è vero che è migliore a un certo punto la 510, ma l'attacco è molto affitto, perché quelle sono molto più leggere, più pratiche, ma soprattutto se c'è quella resa la fa aperta la 510. Sì, confermo, è ovvio, un po' direzionale, però ho anche la X30. La X30 è... pensa che tu... no, a Dolbia ho le 510, a casa Dolbia. E quella lì, io da Dolbia arrivo in diretta qui, con 5 watt c'è del ponte di Itri. Capito? Proprio da casa mia Olbia. Sì, vabbè, ma quello di Itri è alto il ponte, capito? Abbastanza alto, poi prende su un fianco l'imbara, quindi Olbia lo raggiunge, ma se ti sposti, diciamo, sono una zona in cui ti sposti, poi cadi dietro l'imbara e un carruccio fatto. Mi assento 5 minuti, ho il telefono. Sì, ok, fai tu. Marco, ci sei, Marco? Hola. No. Natalia, sei tu. Bene. Evidentemente lo sto rifacendo.